He's gone to the other side, giving us a yo-heave-ho. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Just peel out the watchware. Got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. E ciao a tutte, siamo qui di nuovo e salutiamo tutte, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica. E, di solito noi cominciamo con le notizie, ma ne abbiamo talmente tante e siamo bombardate da talmente tante notizie diversificate che ci interesserebbe commentare che non sappiamo da dove cominciare. Diciamo che ne abbiamo scelte alcune che tutto sommato, pur nella differenza, hanno un filo conduttore, cioè rispecchiano il modo in cui degli avvenimenti tanto diversi che riguardano le donne o tante situazioni diverse che riguardano le donne vengono usate a uso e consumo di questo sistema e dei giochi politici che adesso sono in atto. Quello che infatti ci ritroviamo poi sempre a dirci tra di noi quando leggiamo i giornali e continuamente vediamo questi tanti e tantissimi articoli che si accavallano, ma anche un prolificare di blog come ad esempio questa famosa 27esima ora dedicata dal Corriere della Sera o gli inserti della Repubblica, eccetera. Questo non è un caso, diciamo, questo prolificare di articoli sulle donne, perché in questo momento di grossa ristrutturazione del sistema in cui il capitalismo non è mai stato così forte, mancando di alternativa dall'altra parte, c'è in gioco anche una ridefinizione del ruolo delle donne e quindi tutte queste notizie che riguardano il soggetto, la soggettività femminile, servono proprio a stravolgere l'uso di termini, come ad esempio quello di donna, e a fargli assolvere le funzioni che sono necessarie adesso appunto per la ridefinizione del suo ruolo. Per esempio, un articolo che ci è balzato agli occhi è di Anna Jones, che è una storica giornalista, fotografa e collaboratrice costante di Tom Dispatch, non mi dite come si legge perché non lo so, che ha raccontato tutta una serie di cose. Thank you. Allora, quindi il primo articolo appunto è di questa Anne Jones, storica, giornalista, fotografa e collaboratrice costante di questo Tom Dispatch, che ha raccontato la violenza contro le donne negli Stati Uniti in diversi libri, fra cui, dice, i classici del femminismo Woman Who Kill e Next Time She'll Be Dead, prima di recarsi in Afghanistan nel 2002 per lavorare con le donne. E, diciamo che l'articolo fondamentalmente si incentra sul fenomeno quindi del femminicidio e parte dal presupposto che questo fenomeno si accentua proprio nell'ambito di quegli stati che esercitano la violenza contro altri stati, andando in senso contrario al diritto internazionale. Leggiamo. Washington, 29 marzo. Le guerre in Iraq e in Afghanistan costeranno agli Stati Uniti tra i 4.000 e i 6.000 miliardi di dollari a lungo termine, secondo uno studio della Harvard University condotto da Linda Bilmes, che ha preso in considerazione, fra l'altro, i costi per l'assistenza sanitaria e previdenziale dei 2,5 milioni di veterani, così come la restituzione dei debiti contratti per le spese di guerra. Le conseguenze delle spese di questo periodo di guerra costringeranno gli Stati Uniti a ridurre futuri investimenti in personale e diplomazia, ricerca, sviluppo e nuove iniziative militari, si legge nello studio. In breve, non ci saranno dividendi di pace e l'eredità della guerra irachena e afghana si farà sentire per decenni. Soprattutto la spesa militare limiterà decisamente la spesa per lo Stato sociale e questo è un paradigma che è valido per qualsiasi Stato. La riduzione delle spese per l'istruzione pubblica, la sanità, la previdenza sociale diventa matrice di disagio sociale e il disagio sociale genera violenza. I frustrati e i delusi sfogano la loro rabbia sugli elementi più deboli, le donne, i bambini, i vecchi. E la violenza domestica, quindi, diventa riflesso della violenza esercitata dagli stati su altre società attraverso guerre illegali, embarghi, sanzioni, torture e distruzioni. Ecco che il fenomeno del femminicidio si accentua proprio nell'ambito di quegli stati che esercitano la violenza contro altri stati, andando in senso contrario al diritto internazionale. E questo, sentito così, detto così, sembrerebbe un discorso correttissimo, tant'è vero che anche noi, quando abbiamo detto nel nostro convegno contro la violenza sulle donne di giugno che il sociale è il privato, in effetti abbiamo detto questo, che quello che succede nel sociale e i meccanismi che informano la società si riflettono poi nei meccanismi privati, nei meccanismi interni, sia fra individui, sia di coppia, sia di famiglia. Salvo che la Anne Jones è una giornalista che porta avanti parallelamente ben altro discorso, cioè lei dice che gli Stati Uniti sono costretti, perché il terrorismo impera, impazza e prende il sopravvento, sono costretti a intervenire e a portare le guerre in altri stati per portare la democrazia, per ripristinare la pace sociale, eccetera, e quindi pagano all'interno e nella loro società anche questo prezzo, cioè il prezzo che la violenza che loro sono costretti a esercitare al di fuori poi si riflette all'interno della loro società, che diventa ancora più violenta. Quindi poverini, sono due volte vittime, sono vittime perché sono costretti a agire per portare la democrazia, agire violenza fuori, sono vittime perché al loro interno poi questo ha un riflesso molto pesante. Per cui ci rendiamo conto di quanto i discorsi sulle donne possono essere usati in maniera reazionaria e ancora più contro le donne stesse. Infatti anche in altri punti, diciamo, di questo articolo sembra quasi che la Jones attui un capovolgimento cronologico, no? Nel senso che, insistendo su questa similitudine del soldato che irrompe nelle case afghane, delle famiglie afghane, e poi dello stesso soldato cittadino americano che irrompe in casa propria e violenta, esercita tutte le violenze del caso sulla propria compagna, appunto sembra un capovolgimento cronologico, nel senso che è la stessa persona che prima va a fare la guerra fuori e poi talmente tanto è entrato ed è vittima lui stesso di questo personaggio che finisce come una sorta di sindrome post-traumatica a ripercuoterla dentro appunto alla violenza domestica, quando invece non c'è una priorità cronologica, ma semmai c'è una priorità logica, nel senso che spesso succede anche l'inverso, cioè ciò che tiene insieme queste due, il soldato che entra nella casa afghana e il marito che picchia la moglie nell'abitazione privata, è il ruolo sociale che si attribuisce all'uomo, al rapporto con la donna e soprattutto alla sopraffazione dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna, delle potenze occidentali sui paesi incivili, a detta sempre delle potenze occidentali, ma non c'è questa... Invece la Jones sembra proprio dire questo, sì, no? Infatti. Last time I saw Richard was Detroit in 68, and he told me all romantics meet the same fate someday. Cynical and drunk and boring someone in some dark cafe. You laugh, he said, you think you're immune. Go look at your eyes, they're full of moon. You like roses and kisses and pretty men to tell you all. Pretty lies, pretty lies. When you're gonna realize they're only pretty lies, only pretty lies, just pretty lies. You put a quarter in the Wurlitzer. Pushed three buttons and the thing began to whir. And a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie. And she said, drink up now, it's getting on time to close. Richard, you haven't really changed, I said. It's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombs in your eyes, but the songs you punched are dreaming. Listen, they sing a love so sweet, love so sweet. When you're gonna get yourself back on your feet? Oh, love can be so sweet, love so sweet. Richard got married to a figure skater, and he bought her a dishwasher and a coffee percolator, and he drinks at home now most nights with a TV on and all the house lights left upright. Un'altra notizia, per esempio, riguarda le famose commissioni che sono state istituite dal capo dello Stato, i famosi cosiddetti 10 saggi, che dovrebbero dare indicazioni per quanto riguarda la situazione economica e la situazione istituzionale

L'ultima notizia della settimana che ci interessava discutere proprio sotto il filo rosso della strumentalizzazione, dello stravolgimento delle parole e del ruolo delle donne nel nostro sistema è questo articolo che si chiama «Donne che ostacolano le donne, la sindrome dell'ape regina». E praticamente parla delle donne che raggiungono posizioni dirigenziali all'interno delle aziende e vengono descritta la regina come viene descritta. Vista dall'Italia è una capa spietata e inflessibile. Tutte le tratta le collaboratrici come cameriere o pony express e ha qualche resistenza dalla loro dignità. Se single, costringe le poverette a stare in ufficio fino a tardi. Il suo metabolismo la rendeva operativa dalle 5 del pomeriggio e bisognava assecondarla. Queste delle varie interviste da cui sono tratte le rimostranze delle sue sottoposte. Abbiamo già avuto modo di parlare da questi microfoni, ma anche in tantissime altre occasioni al di fuori, di quello che significa la femminilizzazione del lavoro. Noi la intendiamo come quel processo che ha preso le mosse negli anni Ottanta e che è stato tutto teso, diciamo, a sussumere quello che era stato il movimento di rottura rivoluzionario femminista per, diciamo, ricondurre le donne in delle posizioni più gestibili e quindi, come sempre succede, no, concedendo loro una posizione di potere. Con la femminilizzazione del mondo del lavoro si è attuata anche un'altra funzione importante, cioè quella appunto di far portare alle donne tutto quel carico di sacrificio, di cura, di assolvimento e di devozione verso il proprio dovere che le donne hanno sempre ricoperto nei loro luoghi domestici, anche dentro al mercato del lavoro, per ridefinire tutti i rapporti di lavoro, compresi in questa quelli funzione. Anche dei maschi, compresi sì, anche sì. Quelli dei maschi. L'articolo dice: la sindrome della donna che una volta raggiunto il potere ostacola le altre è studiata dagli anni 70, ma mentre allora poteva essere giustificata, se non altro con una tale penuria di opportunità femminili che le poche che riuscivano si chiudevano nel loro fortino per difendere la postazione, oggi questo atteggiamento appare insensato. Ma apparirà insensato a chi scrive l'articolo, però invece a me sembra una cosa molto sensata, nel senso che adesso che cosa il sistema si trova davanti? Ha voluto far entrare le donne nel mondo del lavoro con le funzioni che dicevamo prima, no? E quindi, diciamo, spronandole a vestirsi e a portare degli attributi prettamente maschili. Adesso invece si vorrebbe sempre dalla stessa donna che portasse una ventata di solidarismo all'interno dei rapporti di lavoro e quindi incominciasse a gestisse il potere in maniera più orizzontale, eccetera. Ma a che cosa è funzionale questa cosa? Ecco, chiediamoci proprio questo. Cioè, a me sembra tanto che è il solito discorso che facciamo sull'emancipazionismo, nel senso le donne servono a fare un maquillage in questo caso dei rapporti di lavoro, no? Per rifondarne la legittimità, cioè attraverso un volto femminile io rifondo di nuovo con le stesse regole gli stessi rapporti lavorativi, proprio per non cambiare le regole che ne stanno alla base, proprio per non mettere in discussione la divisione del lavoro capitalista. Esatto, tant'è vero che un esempio che è un po' forte è che quasi tutte le carceri italiane, insomma, o comunque la stragrande maggioranza, hanno una direttrice o una direttora, come si dice adesso, donna, e da lei si richiede, come il ruolo vuole, pugno di ferro, però allo stesso tempo tendine rosa nelle carceri. Tendine rosa viene definita. Tendine rosa. Ah, tendine rosa. Tendine rosa e possibilmente gerani alle finestre. Sopravvissuta quest'ultima prova in fondo, posso vantarmi di essere una donna con la D maiuscola. famiglia adesso possa fermare di essere una donna con la T maiuscola, di essere una donna mediamente isterica. Allora, due o tre comunicazioni, due o tre comunicati. Il primo è il comunicato dei comitati Monnezza sulla giornata del 6 aprile. Allora, sabato 6 aprile, giornata di lotta diffusa sui territori. Nel mese di marzo, per tre sabati consecutivi, il 16, il 23 e il 30, da un capo all'altro d'Italia, sono stati chiamati tre cortei per opporsi alle grandi opere inutili, contro il ponte sullo stretto di Messina, contro il progetto TAV in Val di Susa e contro le antenne MUOS di Niscemi. Come movimenti contro le nocività e le devastazioni ambientali di Lazio e Campania, abbiamo deciso di raccogliere l'appello congiunto e, appello comune no ponte, no TAV, no MUOS e queste tre realtà e di chiamare una giornata di mobilitazione diffusa sui territori delle nostre regioni il 6 aprile. Gli appuntamenti che abbiamo definito sono: corteo ad Albano alle 15 in piazza Mazzini contro l'apertura del cantiere dell'inceneritore, corteo a Malagrotta alle 15.30 da largo Domus De Maria, fermata del trenino Valle Galeria, contro la discarica di Monti dell'Ortaccio, corteo a Capua alle ore 9.30 in piazza dei Giudici contro il progetto di costruzione del gassificatore. Un tre giorni dopo a Napoli, il 9 aprile, si terrà un presidio sotto la sede della Regione Campania, Palazzo Santa Lucia, dalle ore 15.30. Con questi cortei vogliamo sottolineare come gli attacchi speculativi per la messa a profitto delle risorse naturali, evidente strategia italiana per l'uscita dall'attuale crisi di sovrapproduzione, colpiscano tutti e tutte indistintamente, sotto forma di problemi di salute. Questa strategia è ben illustrata nel Piano Energetico Nazionale varato del governo, in cui si identifica nella Monnezza, nel concetto includiamo anche biogas e biomasse, una fonte primaria di produzione energetica. Si disseminano ovunque i rigassificatori e si liberalizzano le trivellazioni di idrocarburi. All'interno del piano la speculazione trova nuova linfa grazie alla profusione di incentivi per piccoli e grandi affaristi, ivi comprese le mafie, prelevati direttamente dalle tasche dei cittadini attraverso la bolletta elettrica e del gas. Sempre il comunicato sulla Monnezza continua così: l'attacco è quindi complessivo in uno scenario in cui da un lato siamo tutte e tutti sottoposti e sottoposte ad un continuo peggioramento delle condizioni di lavoro, dall'altro ci troviamo a dover fronteggiare il proliferare di centrali inquinanti di tutti i tipi. È per questo che riteniamo necessario un salto di qualità, unire i comitati sparsi per l'Italia che si battono contro la devastazione ambientale e le nocività, non per unire le debolezze, ma per moltiplicare le energie. costruire un fronte di lotta comune dei comitati, un vero movimento che crescendo sui territori sia capace di grandi mobilitazioni unitarie intorno ad obiettivi comuni. La strada è lunga, a noi tocca senza cedimenti far crescere la consapevolezza sulla necessità di un cambiamento radicale e insieme la mobilitazione per raggiungerlo. Chiediamo a tutti gli altri comitati che condividono le nostre analisi e le nostre modalità di costruire assieme a noi questo percorso, coordinamento rifiuti energia. You cried the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river, 'cause I cry. Il secondo comunicato riguarda le lavoratrici e i lavoratori di ACE Informatica che domani, giovedì 4 aprile, dalle ore 9.30 saranno in presidio sotto al Ministero del Lavoro a via Fornovo 8, alla fermata Lepanto della metro A. Perché rispondono alla convocazione ricevuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per discutere, questo ho davanti il testo del Ministero del Lavoro che dice: prega si partecipare alla riunione indetta presso questo Ministero il giorno 4 aprile alle ore 10.30 per esaminare problematiche aziendali ed occupazionali, si prega di dare comunicazione alle RSU interessate. Quindi le lavoratrici e i lavoratori saranno in presidio mentre si svolgerà il colloquio e invitano tutte le compagne e i compagni che possono a partecipare. On and cry me a river, cry me a river, 'cause I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my. E poi domani mattina alle 9.30 c'è un importante presidio a Piazzale Clodio davanti al Tribunale in sostegno dei compagni e delle compagne che sono sotto accusa per quello che è successo il 15 ottobre e quindi hanno bisogno di tutto il nostro sostegno. Non possiamo lasciare solo e sola chi si trova a incappare nelle maglie della cosiddetta giustizia, praticamente nelle maglie della repressione di questo sistema, e bisogna che tutti quanti cerchiamo di supportare tutte e tutti in qualsiasi modo e con tutte le nostre forze. Quindi domani mattina alle 9.30 a Piazzale Clodio al presidio. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Noi e loro.

ricordiamo sempre che questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della coordinamenta femminista e lesbica. Vi ricordiamo brevemente i nostri indirizzi email, che è coordinamenta con due O chiocciolautistiche.org, e invece il nostro blog, che è coordinamenta.noblogs.org. When I wanted to love me, the earth and the floods are forever above me, the bed all for me, and the wind whispered never, but you I have loved, and I bless you forever. Questa seconda parte della trasmissione, dopo la parentesi di Elisabetta, è dedicata di solito a un approfondimento su un tema. Quest'oggi vogliamo condividere con tutte e tutti voi alcune riflessioni che stiamo portando avanti da questi pomeriggi, queste giornate di studio e di approfondimento che stiamo conducendo come coordinamenta. Adesso diciamo lo facciamo tra di noi, ma vorremmo, è tutto funzionale poi a condividere queste conoscenze, questi saperi e anche delle prospettive, quindi di pratica politica che da questo possano nascere. L'approfondimento l'abbiamo dunque fatto su materialismo e femminismo, innanzitutto per cominciare a orientarci, diciamo, su cosa intendiamo per con questi due concetti. Lo spazio radiofonico non ci permette di dilungarci troppo, quindi diciamo che diamo delle linee direttrici da cui siamo partite. Quindi nell'incominciare a comprendere che cos'è il materialismo, abbiamo incominciato ad esaminare alcune... devo stare più dritta col microfono, me lo scordo sempre. Siamo partiti da alcune definizioni, come ad esempio quella che è da Engels nello scritto Anti-During, che se non mi sbaglio è del 78. Il materialismo ha uno scopo fondamentale, vuole essere un'opposizione e una costruzione anche filosofica e non soltanto politica a tutto il blocco socialdemocratico tedesco degli anni 50 e 60. Diciamo, diamo una definizione approssimativa di materialismo da cui siamo partite, cioè viene inteso come una visione che parte, appunto, che si oppone all'idealismo e che quindi parte dalla consapevolezza che tutto ciò che noi siamo, che pensiamo, tutto ciò che si dà storicamente è il risultato della combinazione dei fatti materiali, degli avvenimenti materiali. Con questo non inteso soltanto i rapporti di produzione, ma appunto che hanno alla base i rapporti di produzione, ma che poi informano tutte le sovrastrutture giuridica, politica, ma anche culturale e filosofica. Dunque dentro la concezione materialistica viene inteso anche tutta quella parte spirituale e impalpabile della conoscenza. Infatti l'obiettivo primario del materialismo, come dicevamo, è costruire una concezione filosofica che serva al proletariato e che si opponga a tutte le visioni socialdemocratiche imperanti a metà dell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, il cui scopo fondamentale è quello di rispondere al problema della conoscenza, cioè come pensiero e realtà si combinano e se è veramente possibile arrivare a una comprensione del reale attraverso il proprio pensiero. Lo scopo è anche quindi cercare di costruire, cioè cercare di non far incappare o sgretolare l'edificio teorico del marxismo davanti alla prova del reale. Nell'Anti-During Engels dice: i principi non sono il punto di partenza dell'indagine, ma invece il suo risultato finale. Non vengono applicati alla natura e alla storia dell'uomo, ma invece vengono astratti da esso. I principi giusti sono quelli che aderiscono alla storia e al suo divenire. Quindi è una concezione del mondo che non deve trovare la sua riprova in una scienza delle scienze, ma proprio nella dialetticità, nel senso che la dialetticità del pensiero presuppone un carattere approssimativo e non sempre esaustivo, ma soprattutto storicamente determinato della conoscenza. E per questo il problema della conoscenza è risolto a partire dal rifiuto, da qualsiasi concezione dogmatica che vuole essere diciamo, autofondativa e che si risolve in se stessa, e ma appunto si prende atto che la conoscenza è un difficile processo di avvicinamento al reale, con tentativi, contraddizioni, balzi in avanti, ad esempio in periodi rivoluzionali, da livelli teorici sempre più semplici fino ai più complessi, confrontando nella prassi la loro validità. Il materialismo si occupa anche della visione della storia, perché vuole, diciamo, sottrarre al dominio dell'idealismo soprattutto la conoscenza storica e questo campo del sapere umano. E infatti la storia viene definita come il risultato della lotta delle classi, che combattendosi vicendevolmente sono il risultato dei rapporti di produzione e di scambio, cioè dei rapporti economici. La struttura economica costituisce il fondamento reale della società, partendo dal quale si deve spiegare tutta la struttura della sovrastruttura delle istituzioni giuridiche e politiche, così come gli orientamenti religiosi, filosofici e di altro genere di ogni periodo storico. Dunque, secondo Engels, secondo Marx, diciamo, l'esistenza determina la coscienza, tuttavia questa esistenza non è solo quella naturale, ma anche l'esistenza sociale. Dunque l'uomo non è solo un prodotto della natura, ma anche, ad un grado più elevato, il prodotto dell'insieme dei rapporti sociali. La natura influenza l'uomo, ma l'uomo a sua volta influenza la natura e la modifica. La coincidenza fra la modificazione delle circostanze e quella dell'attività umana non può essere concepita e razionalmente spiegata che come pratica rivoluzionaria. Queste sono le linee, diciamo, da cui siamo partiti per approfondire la nostra concezione del materialismo, e in questo caso quindi siamo partiti dalla concezione marxista del materialismo, ma il materialismo, certo, non è necessariamente funzionalizzato alla, certo, lotta di classe. Diciamo che come femministe, come coordinamenta, l'idea di parlare di materialismo e femminismo ci è venuta nell'assemblea dell'anno scorso dell'8 marzo, quando a un certo punto stavamo parlando della necessità di scardinare i meccanismi con cui questa società esercita violenza sulle donne, e a un certo punto abbiamo cominciato a parlare del personale che è politico e del sociale che è privato. E una compagna ci ha detto in assemblea che il femminismo è un cambiare se stesse per cambiare il mondo. Questa affermazione ci ha, diciamo, dato molto da pensare, perché è uno spostamento significativo del principio femminista del personale che è politico, e la riflessione è cominciata proprio da questo punto, perché l'affermazione che il personale è politico significa che quello che ci succede nel privato non è un problema nostro, non è un problema personale, ma è il risultato di quello che è il sociale. Non è un problema individuale, ma è un problema collettivo. Quindi è un principio materialista, cioè quello che noi siamo, quello che ci succede, quello che noi subiamo, quello da cui veniamo, è il frutto delle condizioni sociali, del modello economico, della strutturazione della società, dei rapporti socio-economici che poi diventano culturali e che poi diventano la nostra impostazione sociale reciproca. Invece dire che cambiando se stesse si cambia il mondo significa pensare che ci sia un principio etico individuale, quindi un elemento idealista che possa incidere su un modello socio-economico. Cioè, come se la cultura, e quindi la mia petizione di principio o anche il mio agire individuale, non venisse da questo stesso modello. Cioè è il modello che definisce la mia cultura, è il modello che definisce quella che poi, quando abbiamo fatto la diciamo l'iniziativa su San Valentino, no? Dicendo che l'amore romantico uccide, è il modello economico che struttura il paradigma dell'amore romantico, è il modello economico che struttura il nostro essere donne. È come se noi avessimo una scheda che ci è stata infilata fin dalla nascita, secondo la quale ci muoviamo e pensiamo e agiamo. Quindi prendere consapevolezza dell'esistenza di questa scheda significa prendere consapevolezza della costruzione socioculturale, eccetera, materialista, quindi che da cui proveniamo e che noi siamo una costruzione. Oh, allo stesso tempo, che cosa, su che cosa abbiamo riflettuto? Sul fatto che anche il nostro spirituale, quello che normalmente si chiama spirituale, cioè tutto quello che è impalpabile, tutto quello che non è definibile secondo la materia che si tocca con mano, anche questo non è una sfera, non è qualcosa che appartiene a una sfera diversa dall'esistente materiale, no? Anche la parte spirituale di noi, intesa come appunto quella parte indefinibile, impalpabile, con cui pensiamo, è il prodotto delle condizioni materiali dell'esistenza, delle nostre esperienze, di chi ci ha preceduto, della storia da cui veniamo, di come siamo strutturate, dei rapporti sociali che viviamo, che ci sono imposti anche fuori dalla nostra percezione, dalla nostra volontà diretta, no? E quindi anche la parte impalpabile di noi morirà con noi e tutt'al più vivrà nel ricordo di chi rimane, che però è sempre parte dell'esperienza sensibile. No? Allora, con queste premesse, questo che cosa significa per il femminismo? Siamo andate a prendere, adesso il discorso appunto come diceva Margherita prima diventa lungo e quindi noi possiamo dare soltanto degli input o delle indicazioni. Siamo andate a prenderci per esempio un esempio di lettura femminista che passa per materialista. Per esempio una lettura di che cosa significa essere donna, che cos'è la donna della Monique Wittig. E ci siamo accorte di tutta una serie di cose, che mentre in una prima parte, quella di analisi, la Wittig, anzi non la Wittig, perché questa abitudine di mettere l'articolo per me è nordico, ma comunque, Wittig che cosa fa? Fa un'analisi effettivamente materialista, perché lei dice che tutto quello che siamo, il nostro essere donne, viene da una costruzione socioculturale, economica, politica. Però a un certo punto cambia registro e dice che prima di tutto sovrappone marxismo e materialismo, che non sono necessariamente la stessa cosa. Il marxismo è una delle visioni materialiste. Il materialismo è invece la consapevolezza che noi siamo il prodotto di un modello socio-economico della materialità dell'esistenza e delle nostre esperienze sensibili, no? Lei fa questa sovrapposizione e dice che il marxismo ha dimenticato tutta la parte spirituale, fuori di sé, fuori da noi, tutto quello che è un'esperienza altra che non sia quella materiale, l'ha dimenticata e poi ha dimenticato l'individuo e ha collettivizzato soltanto l'esperienza. L'individuo vive nel collettivo. No. Citando proprio un passo dell'articolo della Wittig, di Wittig in cui vi è questo spostamento, dice: tutto ciò che è pensato in sé, prima di ogni esperienza, è finito nella spazzatura della storia. Tutto ciò che pretende di esistere al di fuori della materia, prima della materia, tutto ciò che aveva bisogno di Dio, di un'anima o di uno spirito per esistere. Questo è ciò che è stato chiamato l'idealismo. Gli individui, finché non sono che è un prodotto di relazioni sociali, non possono che essere alienati dalle loro coscienze. Esiste anche una coscienza di classe, ma in quanto coscienza, che non si può riferire ad un soggetto particolare, salvo come partecipante a condizioni generali di sfruttamento, tanto quanto altri soggetti di questa classe che condividono la stessa coscienza. E per esempio dice che il marxismo si è completamente dimenticato del soggetto, no? Ma il fatto di dimenticarsi il soggetto o di non dimenticarselo nulla toglie al fatto che l'analisi dovrebbe essere di stampo materialista, perché se nel momento in cui c'è la rivendicazione del soggetto come qualcosa altro dall'esperienza materialista, allora diventa un'altra cosa nel momento in cui io assumo che come soggetto non esisto in per me stessa, ma sono in relazione con gli altri e mi definisco anche in relazione con gli altri e delle esperienze che io faccio, delle relazioni interpersonali, della relazione col mondo, dell'appropriazione che io faccio del mondo, non posso poi concludere, come invece fa Witting, che questo è un dimenticarsi del soggetto, perché qua invece mi sembra che si confondano, diciamo, delle prospettive, delle ambizioni individualistiche con quello che invece è una presa di coscienza collettiva, che quindi auspica una liberazione collettiva. Se c'è liberazione dell'individuo o della persona avulsa dal contesto storico, si assumono anche astoricamente e acriticamente le relazioni che quell'individuo intesse con il resto della società. Ad esempio, un altro marxista dice che appunto la storia non è un processo, non è un, diciamo, divenire assoluto dello spirito come intendeva Hegel, quindi un compimento di un soggetto sostanza, ma è un processo razionale regolato che egli nominava un processo senza soggetto e al quale aveva accesso solo una scienza particolare, il materialismo storico. È un processo senza soggetto fino a quando non vi è un soggetto, una classe, un soggetto collettivo che prende coscienza e entra nel mondo in questo senso. Allora lì si soggettivizza, la soggettivazione deve essere per forza collettiva. Certo, e poi comunque c'è un'altra cosa molto importante da cui partire, che è che l'analisi materialista dell'esistente è una cosa diversa dall'analisi di classe, cioè l'analisi di classe è un'altra cosa, o meglio, l'analisi di classe non ci può essere senza l'analisi materialista, però l'analisi materialista non presuppone necessariamente né il marxismo né l'analisi di classe, però presuppone un'analisi dell'esistente che tenga conto e che si, in cui ci si rende conto che noi siamo il prodotto del modello socio-economico, della costruzione culturale, politica, economica, e siamo un prodotto materiale e siamo un risultato di una lavorazione materiale e sociale che si è venuta costruendo nei secoli. Allora, questo perché è importante? Perché, per esempio, noi ci siamo fatti un paio di esempi su quello che significa fare, nel concreto proprio, dopo aver fatto tanti discorsi teorici, nel concreto, cosa significa fare un'analisi materialista, cosa significa fare un'analisi di classe, no? Quando si dice che l'essere donna è un concetto socialmente definito e costruito, e che noi siamo il prodotto delle condizioni materiali, si fa un'analisi materialista. Quando si dice che l'emancipazione è uno strumento delle donne borghesi per ottenere l'uguaglianza dei diritti, si fa un'analisi di classe. Poi, una cosa che a me sta molto a cuore è per esempio il discorso chiarificatore su quello che sono i consultori, no? Dire che il consultorio, così come è stato strutturato negli anni 70, è frutto del modello economico, e così come si sta strutturando adesso è frutto del cambiamento del modello economico, questa è un'analisi materialista. Dire che uno strumento per controllare la maggior parte delle donne, mentre quelle borghesi ne sono svincolate, è un'analisi di classe. Per cui, secondo me, dichiarazioni del tipo "il consultorio è dalla parte delle donne" è un'affermazione senza alcun senso, a meno che il nostro intento non sia quello di non fare chiarezza. We now counts all those material things you gain by exploiting other human beings. This is a dream to make you papa or make you queen. Won't die lonely, have it all prearranged. Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains. Oh, thanks. All they tell me, still time to save my soul. They tell me. We now saw, people are. Good people are only my stepping stones. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks. Siamo passate ad analizzare una serie di testi. Un testo di Clara Zetkin sull'apporto della donna nella rivoluzione. Un testo di Bebel contro il femminismo. Un testo di Lenin. Un testo di Riazianov che è molto interessante perché analizza il problema proprio attraverso concetti come amore, natura, proprietà, matrimoni, sessualità, con un grande respiro. E chiaramente ci siamo posti il problema di contestualizzarli, perché quello che dicono va riferito a quando è stato detto e come è stato detto, però ci piacerebbe molto parlarne con voi la prossima volta, perché il discorso è lungo, perché ne abbiamo tratto tutta una serie di conclusioni e le abbiamo analizzate attraverso poi quello che è stato anche la modificazione di un approccio che si è avuto negli anni 70 alla problematica delle donne. Quindi la prossima volta affronteremo, appunto, continueremo su questa indagine parallela tra materialismo e femminismo, come si intercettano e come sono stati intercettati storicamente. Lo faremo proprio a partire da questi tre testi in cui appunto si vede abbastanza lampante, che metteremo anche sul blog se volete consultarli, in cui proprio si vede come la dialettica deve essere necessariamente presa, usata come strumento, nel senso che appunto tutto va contestualizzato nel momento storico, e se durante la rivoluzione bolscevica si lamentava una scarsa attenzione, diciamo, e c'era un'opposizione ad esempio della Kollontai al fatto che la rivoluzione non stava prendendo in considerazione dei problemi che venivano etichettati come borghesi, che erano ad esempio la liberazione sessuale eccetera eccetera, si vede anche però che durante la stessa rivoluzione, appunto, tutto quello che adesso noi definiamo un'oppressione di genere, che va sotto il nome appunto o quello che definiamo femminismo, prima era affrontato come questione femminile, proprio perché all'epoca vi era un soggetto rivoluzionario che effettivamente aveva preso il potere ed effettivamente stava cambiando il corso della sua storia, di quella storia fatta dei rapporti di forza e di produzione, e quindi in seno a quel periodo storico andava sotto questo nome. Ciò non vuol dire che il materialismo ha fallito, ma è proprio un'ennesima conferma appunto della dialetticità. Certo, comunque ricordiamoci sempre, a noi farebbe molto piacere che ci mandasse, noi ribadiamo il nostro indirizzo coordinamenta@autistiche.org, che ci mandasse delle osservazioni, che ci mandasse magari dei testi che ritenete particolarmente interessanti, perché noi, il nostro tentativo è quello di analizzare proprio la visione materialista nel femminismo, e che comunque ribadiamo, secondo noi è una visione fondante, al di là poi della lettura di classe o meno. Ed essendo l'argomento molto complesso ed esigendo anche i tempi storici, un ripensamento, perché non si può prendere ciò che è avvenuto in un'altra epoca e semplicemente riproporlo, perché non incontrerebbe proprio nessun processo di coscienza collettiva, sarebbe bello, diciamo, allargare la discussione e approfondirla sempre di più. Alla prossima volta. Thank you.